Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Stige, il grande centro stampa nato in un cortile, di Andrea Ferro. La storia di imprese e di famiglia che raccontiamo in questa puntata inizia più di 90 anni fa, in provincia di Torino. Era il 1927 ed era un mondo antico fatto di botteghe, attività artigianali, usanze e saperi tradizionali. È una trama di vita e di lavoro che sboccia in un cortile di Chieri, una ventina di chilometri dal capoluogo piemontese, sull'onda dell'intraprendenza di Giuseppe Martano, un piccolo artigiano del posto di origini contadine, come quasi tutti da quelle parti a quel tempo. Partendo da quella prima tipografia, si avvierà un percorso che condurrà una realtà imprenditoriale solida, oggi contrassegnata dal marchio Stige Arti Grafiche. Da decenni, la sede e lo stabilimento dell'azienda sono a San Mauro Torinese, a una quindicina di chilometri dal luogo di origine. A raccontarci questa storia è Giorgio Martano, nipote del fondatore e oggi amministratore unico dell'azienda grafica. Nonno paterno era un rivestitore di scarpe e lavorava in un cortile. Vicino c'era un altro piccolo negozio, una tipografia. Questa tipografia aveva un solo titolare operatore, il quale ebbe in lontano 27 un malessere e mio nonno si propose di gestirgli, in attesa della sua ripresa, l'attività. Il problema è che questo signore qua non si riprese e mio nonno scelse, piuttosto di tornare a fare il ciabattino, di fare lo stampatore. Iniziamo a stampare giornali locali, il primo giornale si chiama Corriere di Chieri. Dal Corriere di Chieri ai fogli di paese, dai primi settimanali alle pubblicazioni delle parrocchie. L'azienda è la tipografia di riferimento del territorio. Diventa inchiostro e voce della realtà locale che accompagna nel processo di rinascita e di sviluppo innescato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo quasi 30 anni, è il 1956, Giuseppe Martano decide di lasciare la guida dell'azienda e passa il testimone al primo figlio, Bartolomeo, lo zio di Giorgio Martano. Mio padre non era d'accordo di lavorare per suo fratello e andò a Milano a lavorare in una primaria azienda grafica milanese e fece la sua esperienza. Negli anni 60, esattamente nel 62, l'azienda andava male e mio padre riprese da suo fratello l'azienda, quindi dal 63 in poi mio padre era solo che porta avanti l'azienda familiare. La lunga storia di Stige prosegue a sprombattuto, incrociando stagioni molto felici per il mondo editoriale e pubblicitario. La crescita è testimoniata e certificata dal fatturato, che ogni anno sale a una media del 10-15%. Ma questo lungo ciclo virtuoso si interrompe bruscamente nel 2008, quando la crisi infligge un colpo durissimo all'intero settore. Sono molte le aziende tipografiche che in quegli anni sono costrette ad arrendersi e chiudono l'attività. Nel comparto, infatti, agli effetti della crisi economica, si somma l'irruzione del mondo digitale, che riduce sempre più gli spazi tradizionali, sovvertendo il panorama editoriale e non solo. Ma dai suoi stabilimenti di San Mauro Torinese, Stige resiste come in un fortino e va avanti. Nel 2008, per dare un'idea, Stige era la settima azienda grafica di Torino, invece nel 2010, neanche due anni dopo, sono diventati la prima azienda grafica di Torino perché tutte le altre sei hanno chiuso. Nel 2015 eravamo il quarto in Piemonte, nel 2018 siamo stati il primo in Piemonte perché anche qui le altre tre precedenti purtroppo hanno chiuso e quindi è un gioco al massacro. L'evoluzione tecnologica ha segnato la storia dell'attività grafica, dalle prime botteghe quasi artigianali ai grandi centri stampa. Un'evoluzione che è stata cadenzata dalle sue varie stagioni, ognuna agganciata a una macchina e a una modalità produttiva, come ci racconta sempre Giorgio Martano, amministratore unico di Stige. Il primo passaggio è stato nel lontano 1968, dove abbiamo preso la prima macchina a stampa grande formato offset a colori. prima si stampava un colore per volta o al massimo due colori per volta. Nel 68 sono stati i primi nel nord Italia a prendere una 110-160 come formato, che sarebbe 1100 mm per 1600 mm, che poteva stampare quattro colori in un solo passaggio. Il secondo passaggio è stato 3-4 anni dopo, nel 72, quando si è passato dalla composizione tradizionale alla composizione automatizzata. In prima si chiamava Linotype, che praticamente faceva i montaggi con ancora i caratteri in piombo o in materiale simile, ad un passaggio automatizzato, computerizzato. Il terzo passaggio più importante è stato inizio anni 80, dove si è passati dal film tradizionale, quindi la fotografia veniva sviluppata in pellicola, veniva selezionati i quattro colori base e poi si facevano i montaggi. Con il sistema che si chiama computer to plate si è passato da un passaggio diretto saltando l'intermediazione dei film, quindi la fotografia e il file viene trasmesso direttamente e inciso sulla nastra. Anche nel settore grafico, tanto più in una realtà caratterizzata da una continua evoluzione, per poter stare sul mercato e mantenere quote significative, occorre diversificare le produzioni, allargare il numero dei clienti, divaricare le opportunità e gli ambiti di riferimento. Noi facciamo un terzo. Facciamo un terzo libri, da scolastici a bambini, a libri per adulti, guide fotografiche e compagnia. Un terzo cataloghi, che possono essere dai supermercati ai cataloghi industriali, e un terzo riviste, anche se le riviste è quello che sta scendendo maggiormente in questo periodo. Con l'avvento del digitale, che come si diceva prima ha pesantemente condizionato l'attività dei centri stampa, Stige ha deciso di allargare lo sguardo all'estero, in particolare verso i mercati emergenti, ai quali mettere a disposizione esperienze e capacità tecniche. Oggi l'azienda di San Mauro Torinese fattura 30 milioni all'anno e conta 120 dipendenti diretti. Noi abbiamo cominciato due strade che stavano andando particolarmente bene. Quindi prima è stata quella iniziata nel 2015 e portata avanti ancora in questi 5 anni, di andare alla ricerca di nuovi mercati. Noi siamo entrati molto bene nel mercato africano, principalmente la parte francofona, quindi Marocco, piuttosto che Costa d'Avorio, piuttosto che Senegal, Camerun anche, e il secondo medio orientali, quindi parlando di paesi in maggiore difficoltà che hanno ottenuto degli aiuti nazionali, quindi parlo di Libia e Siria, dove non abbiamo potuto stampare in passato, parlo dell'estate scorsa, dei manuali scolastici per questi due paesi. La rivoluzione digitale va in qualche modo cavalcata, anche quando sconvolge attività antiche. Investire in tecnologia diventa così fondamentale per guardare al futuro con intraprendenza, come ci racconta ancora Giorgio Martano, amministratore unico di Stige. È un investimento tecnologico che abbiamo fatto proprio a novembre 2019. Abbiamo comprato una nuova macchina che è in grado, per la sua tecnologia di stampa, di stampare anche altri materiali, dalla plastica al PVC, al tessuto e compagnia. Era la nostra intenzione attaccare da gennaio questa parte, quindi 3 mesi fa, il mercato del lusso e degli altri stampe, quindi per cataloghi di moda, cataloghi d'arte, cataloghi di ceramica e compagnia, perché questa macchina ti permette di sostituire, per esempio, la copertina di un'agenda per bambini, un diario per scolastico, farlo stampare direttamente su un tessuto, piuttosto che una carta poi attaccata sul tessuto. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.